qui. Se tu mi guiderai, se tu mi sosterrai, mi han detto che il mondo è rotondo, ma io voglio uscire, la porta dov'è? Nell'arco di un'esistenza avrò anch'io il diritto di parlare con te. Mi puoi stare a sentire? Mi puoi fare spiegare? Dammi solo un'occasione nella vita, però impegnati affinché non sia una vita, un traguardo nuovo, una via d'uscita, per volare, cantare, sentire, atterrare, godere, salire nel buio, vedere cadere nel sole, nell'acqua, nel mare, nel cuore, sudare, gioire, gridare. Arrivata una banale giornata, finisce così, ma i sogni mi tengono vivo e mi strappa un sorriso la ragazza del bar. Domani presto arriverà, il cerchio si ripeterà, voglio credere ancora nel futuro, senza sbattere la testa. Cantare, sentire, atterrare, godere, volare nel buio, vedere cadere nel sole, nell'acqua, nel mare, nel cuore, sudare.